La uhsi sana'an alaik. Non hanno numero le lodi dovute a te. Anta kama athnaita ala nafsik. Tu sei come hai lodato te stesso nel sublime Corano. Azza jaruka wa jalla sana'uk. Il tuo protetto diventa potente e grande è la lode di te. وَتَقَدَّسَ أَسْمَاؤُكَ وَعَزُمَ شَأْنُكَ. Sono santi i tuoi nomi, sublimi le tue opere. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. E non c'è divinità tranne